E beh, grazie. A te mi sta facendo l'aria zollo. E beh, Luca. A che sei, Lu? E beh, grazie. Ho finito pochi momenti fa. E cosa si sveglia? Più bello. Sì, giocando al telefono. Più già oggi e domani a me. La salva gli ha fatto in terra. Ehi, non si è sentito nessuno, no. Io perlomeno era acceso, non ho incontrato nessuno. No, nessuno. Ehi, stavi andando a me venire a duccia, me ne vado a stare. Lo sputo. E mi si muove tutti i passati, Ma a me mi butti a testa ogni anno, anche se mi faccio il vaccino dell'influenza, mi prende subito, anche se ho un buco male ai polmoni, sa? A me mi piglia subito anche la broncopolmone, perché c'ho la bronchite cronica. Ecco perché, vabbè. Basta curarla e guarisci. Non fa curare, no, oramai va. Perché in casa dalla polvere della falegname via, andrò in falegname via, capito? Se è cronico, è cronico. No, vabbè, dico l'influenza, da chi passa. L'influenza sì, però, ai polmoni sono complicati. E poi tutti i solventi che ti sei inalato. Lucidatura quando verniciavano. A sverniciare con la carta e poi la battuta con la polverina, pari a non venire, ma gli avvenne pari fumo, pari da lontano lo vedi quando soffiavo con il compressore per pulire le porte, sembrava fumo, invece è polvere della vernicetta, capito? E poi gli dai la finitura. Vabbè, purtroppo non si può tornare indietro. Bisogna pensarci due volte come si fa un lavoro e bisogna mettersi in sicurezza. Ma lì sicurezza non veniva. Me ne è giunto un altro con queste mascherine, questi bonini, che ti date una ripidare, che se di babbi non si fino a nulla. E gli ho detto, ma chi dice mascherine per fare legna meglio? Faccio una cosa, se ce l'ho i punti che mi sta già facendo ridere, per carità, a chi macchina ti comprava le mascherine con i doppi filtri? Me l'ho comprata io. Aspetta, buona. Ciao Bacchi. Ciao, grazie, buonasera, buonasera anche a Luca. Meno male hai lasciato un attimo il bianco, mezz'ora, raga. Io ti taglio il dito, ti taglio. Avanti, Graziano. Ciao Bacchi, ma se la già si zavarava, chiedi a Luca. Stavo facendo l'aerosol. Vai, Luca. Ciao Bacchi, ma a mezz'ora no, siamo appena entrati. Io ho sentito, ho chiamato, nulla, raga, nulla. A Caniti eravate, va bene, vela. Allora, Luca, quello a fare là, stato là, cosa hai sistemato? Nulla. Facciamo l'affare lì e sempre in camera. Dobbiamo vedere per andare. Capito, non è risolto nulla. Bisogna darlo a qualcun altro allora. A vedere qualcosa è il pezzo da cambiare. Così è. Io faccio tanto, quindi tanto. Ma lì è tutti i componenti, micro componenti. Qual è il danno rotto? Cioè, qual è danneggiato, dai, diciamo, componente, non so. Perché quello tecnico di mio cugino lì a Cuneo l'ha aperto e dice c'è l'integrato bruciato, e però non poteva cambiare perché lui non c'aveva attrezzatura. Perché non te l'hai fatta indicare, così l'abbiamo inciambato noi, no? Me l'ha riportato indietro senza fare un piffero, perché dice non c'aveva attrezzatura per farlo. Sono molto chi è? A Cuneo, non è qua a Sassari, a Cuneo. Tu la tentatura ce l'hai, ma non sappiamo qual è il difetto. E se è molto rapido a capo. Ma infatti. sbagliavo, sbagliavo, tu dici, abbatti, grazie. Altro se sto mettendo il pellet, mi prendi, batti. Andiamo, grazie, metti il pellet, metti, scalda. Capito, sta riscaldandosi. No, è che devo trovare uno, solito, a Vittorio, senz'altro lui se ne intende questa roba qui. Mi dirà, mia, c'è da cambiare questo pezzo. Poi te lo porto, te lo cambi. E vabbè, già stiamo parlando di un professionista, e alla fine. Io in base al danno che vedo riparo, capito? Nelle TV per esempio viene molto molto meglio perché misuri quelli che sono bruciati. Molte volte non si trova manco quello che è bruciato, perché sono anche quelli piccoli componenti, capito? Ma sono micro componenti quella radio lì, sono micro componenti. Nel televisore sono più grandi e si vedono lì, boh. Come l'altro si è bruciato, gli hanno messo mano e hanno fatto una buccalia. Buonasera a tutti, buonasera Bacchisio, buonasera Graziano, se ne ascolto, buonasera a tutti. Buonasera Luca. Buonasera Vittorio, ben ascoltato. Avanti Luca. Ciao Vittorio, ciao Bobo. Via, saluto di Cate del Cucito, ciao anche a Bacchisio. Passa la voce Antonè, buonasera, basso semi, mettiti i piedi nell'acqua. Che avanti? Che avanti? Chi stavi chiamando? Ma a me? Oppure stavi chiamando un'altra persona? Mi sa che qualcuno ha fatto il break, non lo so. Niente da fare. Non si faccia nessuno. Grazie, ha messo là il pellet. Un attimo, sto terminando, un attimo, siamo da Chisio. Oh, ciao, buonasera Marino, viene scucciato, avanti. Ma perché non me ne andate al cinema? Chisio e vi ho sentito, ciao anche a Luca, se mi sta ascoltando. Graziano sta mettendo il pellet, Antonello sta cambiando l'apparecchiatura, Vittorio negativo non lo ascolto. Bene, come mi stai ascoltando, ma chi? C'è Luca. Luca dovresti ascoltarlo. Luca, vai per Marino. Oh, ma ciao Marino, mi ascolti? Io non lo sento. Ciao Giulio. Ciao, ciao Luca. Ciao Bacchisio, ciao Marino. Ciao Antonello. Sento tutti. Non sento questo Vittorio. Chi è questo Vittorio? Mai sentito? Ciao Giulio, buona serata. Vittorio è Vittorio Piccolino. Un Vittorio Piccolino, eh. Ehi! Come sono davanti, Giulio Piccolino. Ragazzino, da, Vittorio il Grande, da. No, Vittorio il Grande è l'altro, tu sei Vittorio Piccolino, ciò vi confondete. Mi prendi, grazie. Ciao Vittorio Piccolino, ciao Giulio, bebè. Governo te la sai quella là, eh? Di la verità, che non l'hai levata. Di la verità, ogni giorno gli dai un salutino, Giulio. Oh, io l'ho cancellato subito. No, no, no, non mi interessa. Chi è questo Vittorio Piccolino? Ancora comunque non l'ho sentito. Ma cos'è, uno nuovo questo Vittorio Piccolino? Sei uscito dall'uovo di Pasqua, Giulio, e invece te la dovevi lasciare. Ogni tanto ti facevi uno sguardo e ti tirava sul morale. Boh, mica semi. No, io ce l'ho sempre alto il morale, dunque no, non c'è bisogno. Non ho bisogno di incentivi. E beh, Luca del Monte, avanti. Ma quello serve sempre, quel morale lì, bello bello. Ma tu lo sei Luca, no? Se io lancio a Luca, Luca del Monte. Ma lo sai che quello lì è vedito veloce, da? Vuole sempre parlare lui, solo lui, lui, lui. Dai, io mi assento una ventina di minuti, dai, riprendete voi, rimango in ascolto, riprendi Bacchisio. Benissimo Luca, buon ascolto, ci sentiamo poi allora, bussa. Vediamo Marino se è ancora affacciato alla finestra. Marino, ci sei? Certo, ci sono, mi devo spostare da mezz'oretta anch'io, Bacchi. Marino, Marino, ci sei? Ah, sul piano di sopra. L'ho sento anche un po' a casa. Che siamo... Stai uscendo a tratti, ma... Sto parlando in due e non è uscito né uno né l'altro. Adesso faccio una cosa, avanti, va chi? Sì, a farci ha parlato Vittorio sopra, dunque non si è capito niente. C'è Giulio che ti ha salutato, ti rimetto il metro micro a Giulio. Giulio, vai. Giù, ti chiedo scusa, ma chi è detto che non è già inizio con una mezz'oretta? Ok, ciao Marino, no, stai uscendo a tratti, Marino. Mettiti in una posizione un pochino migliore, perché non c'è segnale, per cui fatti sentire, stai uscendo tutto tratteggiato. Vabbè, e allora Grazia, cosa mi racconti oggi? Io ho finito 5 minuti fa di farmi l'aerosol, a chi? Ero dupunato, boh. Aspetta che faccio riprendere... Va bene Luca, ci sentiamo dopo allora, anche a te Marino, a dopo. Va bene, facciamo riprendere a Vittorio se lo senti, Giulio. Ma io Vittorio, fatti sentire. Vittorio, riprendi. Non lo sento. Claudio, ci sei? Ma Claudio non l'ho sentito giù. Va bene, dai, Marino, vediamo un po' se ti sei messo a posto, dai. Un attimo Giulio, vediamo spostare una mezz'oretta, eh? Ci sentiamo dopo giù. Ci sentiamo per una mezz'oretta, adesso faccio qualcosa. Va bene, a dopo allora Mario, dai. Ti ho sentito a tratti, comunque ho capito per una mezz'oretta. Non so se ti hanno sentito loro. Avanti, bacchisi. E così. Marino, allora tra poco ci sentiamo. Metti qualcosa di buono però. Se no fai... A pezzettini. Allora siamo rimasti io, Giulio e Bacchisio. Sono due somari e due briganti, avanti giù. E allora? No, c'è anche Graziano che sta mettendo il pellet, perché oggi è infreddolito, per cui si deve scaldare. Bubu, Graziano, io riprendi e lascia stare il pellet. Dopo un mese papponi una buccia di pellet, no? L'ho già fatto quello, mi stavo rilanciando a Vittorio, ma mi pare che è caduto, non lo sento. Tu sentito vai, Bacchizzetto. Vittorio è caduto, Graziano, non risponde all'appello, l'ho chiamato poco fa e non ha risposto. Deve essere sia dentro ai Salesiani, facendosi un frati. E allora Giulio, cosa ci dici oggi? Niente, ero tutta la sera al computer, oggi non avevo voglia di guardare partite, casomai me ne guardo una stanotte, perché oggi ce ne sono tre in tutto, una alle 3, una alle 6 e una alle 9:15, dunque ancora non ha giubito mancuna, adesso guardiamo quella di stanotte. No, io il computer, tu mani me lo accendo, sono da un bel po' adesso che non lo sto accendendo. Domani me lo guardo un po', va. Riprendi i bacchi. Io, già va benissimo, domani le partite. Domani alle 6 c'è Cagliari. Ok, sì, beh certo, ma quella che mi interessa di più a me è lunedì. La Juve, Juventus Chievo, per cui vabbè, a me questo campionato così tutto spezzatino non mi piace proprio niente, era più bello quando si giocava tutte le domeniche alle 3, tutti insieme, c'era più gusto, allora si ascoltava la radio e basta, perché la televisione, sì, c'era stata anche la televisione, però è un'altra cosa. È un'altra cosa, quando incominciava, Ameri, avanti a te Ciotti, scusa, un spido, bomba, cazzo di rigore, bomba, un sacquettori. Era più bello. Era diverso, invece uno gioca alle 6, l'altro gioca alle 4, l'altro gioca alle 3, non se ne comprendi più nulla, proprio sensato. domani io vinco, se non c'è, c'è lunedì. E c'è quel burattino di illuso. Chi sarebbe? Questo, chi è questo burattino di illuso? Chi è? Che è l'ultimo acquisto che ha fatto la Juventus. Se si crede sia Gesù Cristo e poi è nulla. E chi è questo che ha fatto l'ultimo acquisto? Ah, Ronaldo. C'è il più forte del mondo quello. No, perché la Juve ne ha già acquistato già un altro, solo che inizia dal prossimo campionato. Per questo non l'ha già ingaggiato, Ramsey. Guarda quello lì, non posso vedere. Non lo posso vedere. È illuso da piede fino a testa. Si pensa ad avere il piede d'oro lui. Beh, in effetti c'ha il piede d'oro. È il migliore in assoluto, è un grido. 31 milioni l'anno, non lo so qui. E cosa vuoi di più? Scusa se è poco. E ti mettessi fino a me, paghi su. Quello sì. Però c'hai i miliardi, non i milioni, i miliardi ha. Appunto. E quanto gli ha fatto guadagnare anche alla Juve il suo ingresso in quella società? Non è che ha guadagnato una barca di milioni, solo dalle magliette che ha venduto col suo nome ha incassato roba di 500 milioni. E cosa vuoi che sia? Solo dalle magliette in tutto il mondo. Ma adesso quest'anno solo gioca la cosa alla Juve, il prossimo anno gioca con latte dolce. Allora gioca con latte dolce. così, magari ne avesse avuto almeno, non dico molto, ma una minimissima, ma piccola però parte, il giocatore del latte dolce come quello. Poi, e non solo un latte dolce, ma squadre addirittura di Serie A e anche della Liga e anche del campionato tedesco, eccetera. È troppo voti, gli si può davvero. Quello è il calcio. Lasciamogli stare in pace. Tanto, a noi non si dà svenuta. Non ci danno proprio un pippero. Graziano, fatela questa aerosol. Ehi, l'ho finito poco fa. Eia. Una mezz'oretta buona, credo. Intendi chissà, Giulio, ottantenne, fa lavoro con la badante, lei gli viene un infarto e muore. Ciao. E a voi che lo passi, come ascolti a me? Una bomba, l'hai ammazzato tu anche. Molto, passo da qua. Adesso voi ascoltate molto meglio, solo con gli aiso. Molto. C'è molto. L'hai molto, anzi l'hai proprio scannato del tutto, lo hai a Graziano poco fa, Antonè. Ma chi si è abituato a vedere giocare il figlio della tiraca di Camboni, no, Ronaldo? Vabbè, ma altro da Giugiamato, lo vedi? No, sto cucinando, Giulio, sto ascoltando, ma non ti ho sentito, sto cucinando e c'è gente stanotte. Ho capito. Va bene, però fai così, agli invitati di portate da mangiare qua, se no un giro di banca, così gli devi dire. Ma te ne rivari, ho mandato una circolare 10 giorni prima di bussare con i piedi, ma nessuno lo vuole capire. A volte mi dico, cosa vuol dire, se c'ho le mani, e tu zocca con i piedi, e rimani derini impignati, invece nessuno comprendi. Chi non lo sa che è così? Dai, ti mando avanti gli amici, avanti Bacchisio. Salutiamo Claudio, buonasera, buona cucina, stai cucinando, buona cucinata. Andava in mela. Graziano, avanti. Ciao. Ho dato quella cosa a quella persona. Kappa, adesso ho rimesso nuovo Iaiso, solo che non mi ricordo più come sono i passi. Sono frequenza sono 446081.20, quindi domani mattina me lo faccio al fresco e lo sistemo meglio. Nello 25, punto 25, Antonello, 81025 però, o meglio 25 esce in automatico. No, solo qualcosa io, senza essere memorizzato, capito? Domani me lo sistemo meglio, alla luce, che adesso ci vedo a fanculo, magari tocco qualche pulsante strano e va tutto fuori, ma per 5 kg se non succede nulla. Sì, vabbè, già arrivi fortissimo lo stesso, però sarebbe stato più chiaro con la frequenza esatta. Vabbè, avanti, grazie. Ciao, lo sai che è un concorrente, a Claudio Dettino Pigliani, non molto da chef Dettino Pigliani. Che va? Che già ne va di me, Armanco, si va dei muscoli e l'appetito. Appetito già non ne manca, sono così sicuro. Poi la bravura in cucina, questo non lo so, però l'appetito di sicuro non ne manca, vero Claudio? Ma vai a girare un elettronio, se mi brucia. Vai Antonio. Allora, siamo a posto, siamo. Kappa. Adesso devo nuovo riagganciare l'antenna alla 27, vabbè, quello lo faccio un altro momento. L'ho agganciata alla 87. Andà bene. Oggi Antonello lo sento tutto a pezzi, non sta uscendo bene. Sono rimasto per un attimo senza batteria, adesso l'ho cambiata. E chi tu? E allora, c'era consumata e non me ne sono cambiato. L'ultimo passaggio che ho fatto l'ho fatto al buio, senza batteria. Antonello Pompone, io lo sento male oggi, come lo senti tu? Giulio, se te l'ho spiegato non hai capito cosa ha detto, che è 2 e 5 Hz indietro, è 5 Hz indietro, che se non lo può programmare, ma che in questo momento non si vede nei tasti, te l'ha detto. E beh, se accendi l'accendino facci la luce. La luce già accesa, solo che nell'angolo dove l'ho messo il baracchino, hai capito? Non pigliano la luce, non se ne vede, tutto lì. Antone, ma fai schifo, si sente tutto rumore, rumoretti, chissà voce strana, tutta buiosa, come lo senti tu Giulio? Io lo sento benissimo, anda a me, potrei sentire meglio se si sintonizzasse perfettamente nella frequenza giusta, però lo sento a bomba, allora cosa vuol dire a bomba? Vai Bacchi! Ma da 20 a 25 non cambia niente, l'importante sia 081. Quello avanti a vedere un po' se ti ascolto io. Fattorello, mica ti ha rilanciato, Bacchisio! Grazie, lo intendo in mezzo alla QFM, boh. Ma grazie, ti hai comprato quel lavandino di antenna, ma mi pare che fiumi meglio prima che adesso. Boh. Quando l'hai messa di... Tutto a pezzi sei uscito, tutto a scorreggetti. Boh. Attaccami l'antenna della televisione, grazie. Tira pure da 2 metri. Andiamo a guarda che io ho l'antenna esterna adesso. E lo sentivo sempre bene, è lui che sta uscendo male. Già lo so, ma perché non è perfettamente centrato in frequenza. Magari il tuo apparecchietto lo hai sintonizzato in banda stretta anziché in banda larga. Ed è per quello, io lo sento bene lo stesso, anche se è 5 Hz indietro, lo sento benissimo. Sintonizza in banda larga, non in banda stretta. Ma cosa che queste cose ti devo insegnare? Ma si sa c'era il vacconi, lo piglio in banda stretta, ricordo la fucilata con un Winchester. Vedi, tu non lo tocchi. Non è possibile. Ma cosa ti credi che Antonello è stato in via Leo Cavallo, perché Antonello è stato in Serra Secca. Come lo proietti, le terra aria, diglielo tu, Bacchi. Cosa vuoi che dica che almeno mi ascolta? Antonella, mi ascolti a me? Ehi, ha fatto una buccaria in nata che c'ha capitura Antonello con questi antenne. Ma questo sa che l'antenna sul BMR. No, non sto uscendo, grazie, io sono qua, lo dico. Giulio, come mi ascolti? Io ti ascolto benissimo, Bacchis, benissimo ti ascolto. Dalla grande, per cui va bene così. Cano è costa molti parare ci brutti. Antonello là si è falato. Antonello si è falato, non si intende più. Scusate. Antonello, non lo senti a Bacchidio. Comunque sono in ascolto. Dove è che c'è tutta la cadria, Bacchia, paghi su, non intendi. Beh Claudio, pronte sono queste bistecche. Aspetta, hanno modulato sopra. Vittorio, mi sembra sia. Vittorio, tu vedi? Sì, sì, Marchisio. Stavo dicendo che poco fa dovevo riattaccare perché ho spegnato. Comunque mi sto ascoltando, sono in attesa. Ma che è che tu, Vittorio? Si può sapere? Un ragazzo che abita nelle nostre vicinanze, giù. A Giulio non l'ascolti, Vittorio? No, non lo sento, l'ho sento solo a scatti. Perché ha la posizione buona. Spostati dove sei e vedrai che l'ascolti a Giulio, perché arriva forte. Giulio non so se ti ascolta, Giulio l'ha ascoltato lei a Vittorio. Sono andato con un palmare. No, non lo sento, non ho mai sentito. Non so che sia, non l'ho mai sentito. Cos'è uno nuovo è questo? Ehi, ehi, Giulio, nuovo, lavato con perlana. Ah, per quello è che è nuovo di secca, è per quello che non lo sento. Ehi, capita. Allora Vittorio, mettiti a piombo, fatti sentire anche da me, se no ti denuncio se non ti sento. Beh, sei andato, grazie. Ehi, ricordo la maffetta a capo. Ma così la massa ricordo la maffetta a capo, con la buffonete sì. Si impara a non fare cose come ti si vedi. Ehi, più basta di chi si sono ruoti, non sappiamo chi sia. Aiuto, fra, vai. Oh, io non riesco a entrare, che c'è sempre Graziano davanti, c'è. Mi supera, Ciao, fra, Graziano è Spidi Gonzalez, per quello è. Hai il dito facile, no? E allora lui è sempre in mezzo, come il prezzemolo. Vai, ma chi? Ehi, Graziano è il dito veloce. Spidi Gonzalez. Vediamo se Antonello è arrivato alla finestra. Antonello. Alessio, ci sei o no? No, è caduto. Mi la cannuccia con la bionda, vai. Ciao, fra, ben sentito. Era ora di sentirti. Vai, Franco, mettere a piombo questa gente, perché io non ci riesco. Ma io, a dirti la verità, sento a te poco a Graziano. E gli altri non li sento. Gesù Maria Giuseppe, che altro non può chiamare? Non è possibile. Grazie, sentito Franco, ti sente poco, tu hai inteso che sta dito. Ma chi se non intende, non fai niente. Ma chi, mettiti a piombo, anche tu, mettiti sulla sedia, che sei più in alto. Adesso esco da sotto il tavolo, sono sotto il tavolo. Franco, lo mi ascolti? Non ti sente, ma chi fuori di una gara crepa sotto i giappi, a fine città se ti intendi. No, non mi ascolta, non mi manca di me. Purtroppo, probabilmente è in una zona chiusa. Evidentemente sì, verso te evidentemente è chiuso, sì. Vabbè, ma io già lo sento abbastanza bene. Non è fortissima la radio, però è chiarissima, bella abbastanza. Diciamo radio 4, dai. A differenza magari di Graziano in questo momento che è radio 5. Tu sei radio 57, anzi no, 97, vai, è meglio. Per cui Antonello poc'anzi era radio 80, perché era fortissima, però non era centratissimo. Ma è andata bene così. Poi c'è Claudio che è radio 150. Però è impegnato con la graticola, sta cucinando, capito fra? Lugano che intende in opinione a Vuzia? No, l'ha liato la Lugano, l'ha posto in la trasala al posto, ossia Lugano. Claudio, a Filippo preparando le sale secche. Manco rosso, gli do quello dopo la boia pa' Filippo. Allora non si dà agli ospiti. Agli ospiti dai russi, Claudio. Aspettate un secondo che devo girare la graviglia. Aspetta, devo cadere la carne per terra, amico. Oh, yeah. Ah, io grazie, dai, faccio ridere. Ehi, ma cosa sta facendo Claudio? Cavallo a dondolo o senza il dondolo sono? Ah, quello te lo dice lui dopo, non lo so qui se è cavallo a dondolo o se sono bicchiacchi dagli altri, cosa ne so qui, boh. Avanti, ma chi? Ma chi è, Franco di Solso o Franco di Sassari, grazie, ma Giulio? Di Sorso, ma adesso perché ti sei abbassato ancora un po', di Sorso, Franco di Sorso, ti sento sempre abbastanza bene, però ti sei ancora abbassato, speriamo che ti sentano meglio loro almeno, dai. Franco, l'hai sentita adesso questa volta, Bacchiso, si vede che si è spostato un po'. No, negativo, non l'ho sentito, no. Non riesco a tirarlo fuori a lui, per niente, è proprio vero, eh. Lascerà anche a te. Non so, ma chi non ti sente, tu già l'hai inteso, ma chi, perciò non c'è bisogno che ci faccia da ponte io, per cui va bene così. Vediamo se Claudio gira dove la graviglia. Claudio, bene, l'hai girata questa graticola? Sì, che l'ho girata, la mazza che viene varia, che mi vede bruciare. A me mai che tu sei così non mi niente. Così che andavi di l'ospite tu sei a teccio, babbo. Ehi, se ne davanti le mani, se no ci abbia le luci. Bella giornata, ti dico proprio, nasce una gana. E te sai, Franco? Vado di te, amichetto di Claudio. Se ne davanti le mani, se no io so con te, cioè, un po' sai. Fate bene. Dovrebbe stare a Edo, a Baltasoli e a Filippo, poi gli altri, se venne, se no per la Bolinghi per i 3.000, la graviglia che dà. Io, buonasera. E così, è vero, questo pure è vero. Ah, io, ma chi? Posso ti sei andata alla cadria? Ehi, dai, un attimino di quel Rix per mia, poi riprendo. Vi saluto, non sia che qualcuno se ne vada via. Una decina di minuti, un quarto d'ora, poi riprendo. Riprendi ancora giù tu, quel Rix per mia. D'accordo, ma chi? Siamo qua, dai. Quel Rix per Pia. Allora, tu dici per mia, io dico per Pia. Avanti, Graziano, canta. Ma non è meglio. Ehi, ehi. Però ci ascoltiamo tutti. E va bene, a dopo. Però si è abbassato un me. Era più alto poco fa. E c'era Vittorio, non lo so se Franco lo sente, un po' più tu a Vittorio. Cazzaccio in PMR. Penso che è andato qua. Non ho capito che probabilmente ti ho schiacciato. Ah, vabbè. No, ho visto un segnale in 27, forse qualcuno stava chiamando, ma non ho capito chi era. Ma no, ma ne sono le 10. Sì, sul 10, io sono sintonizzato sul 10. Oh, non ho visto niente io. C'ho il baracchino, il Milan, c'ho il Milan, anche se io sono juventino, però baracchino juventino non è vero, se no faccio il Milan. Ma è fatto gioco. Io ho chiamato adesso, ma non risponde a nessuno. Vabbè che è Marco. Beh. Marco, juventino sì, brueso con juventino. Mamma mia, sono fatti della stessa squadra. Ciao Vito, buonasera anche a te. C'è Marco il 27. Sì, lo sto ascoltando col barracchino. Il barraccamento. Adesso guarda se esce. Deve fare una derivazione col baridotto. Attacca la 27, grazie. Come? No, adesso non la posso attaccare. Con l'antenino interno qua. Ho capito quello che sto dicendo. Secondo la zona che è lui, non lo so. Che arriva a passo anche con la 27. Venite a lui, in quella zona lì, mi sta lì alto, dai. Allora mi dovrebbe ascoltare. Penso di sì, è già lo grido. Ehi. Mi sento un po' a scatti, ma io sono un pochettino lontano dalla zona, boh, non lo so perché sta facendo quel male. Che zona sei? Graziano, passa il 27. Cos'è giù? No, Graziano, stavo dicendo di passare il 27, così passiamo tutti lì. C'è Graziano che non ci risponde, grazie, ci senti? Dimmi! Manco male, chi vi sei, mamma mia! Passa il 27, Graziano! Vai, vai, tranquillo! Graziano, canale 10! Ragazzi, io vado che devo attaccare. Ci risentiamo alle domani. E tu, ciao! A domani! A domani! E perché te ne stai andando? Passa su canale 10! In 27! No, vai tu adesso, è già tardi! Vai tranquillo, non ti preoccupare! Babu, siamo passati tutti lì in 27, comunque, in canale 10! Vai, vai, ok, non ti preoccupare! Babu, ciao, grazie, ci sentiamo allora alle prossime, dai, ciao! A domani! A domani, ciao! In ascolto, ciao, ciao! Chi è avanti? Siamo ai 27. Uffo! Uffo! E dimmi tu! Che ti facendo? La corda all'orologio. Ah! Quando la corda all'orologio, se ne sono andata alla 27, Marchisio si è assentato. Vittorio se n'è andato, non per nessuno. Io mi sono la corda, l'ho messo in bagno per ascoltare. Non si sentiva nessuno. Ci dicevo se faccia dalla radio. Invece non c'era nessuno. Oh, si sono spassati Giulio sulla 27, Franco lo stesso. E Claudio sarà lì lo stesso. E ma tanto era un casino, non si comprendeva più nulla, ne ha sopra modulazione. Come al solito. Stava parlando Franco e dopo allo stesso tempo stava parlando Vittorio, un casino, non si comprendeva nessuno. Ho capito, e vabbè, ma dove è casino, siamo di qua, meglio la saperte. Sì, meglio che c'è molta gente su questa radio qua, ne c'è un casino, non è come la 27. Cosa stavi facendo? Preparando la cena. Stavo mettendo il penne. Cos'è Grazia? Oh, vabbè, cosa stai facendo? Anche io l'ho messo poco fa, cioè Paoletta l'ha messo. L'ho messo un'oretta fa, se l'aveva gli associato. E qua è a 3, capito. E qua non me lo ricordo a quant'è adesso. È gennaio, è pure, dimmi. Oggi ne abbiamo... 19, domani è 20, poi c'è una settimana e 4 giorni, una settimana e mezzo e 16 gennaio, e subito c'è mai più. Lo so, è vero. Ah, mi sono bello rinfrescato, che bello, sono scaldato. No, io l'altro giorno che mi ho fatto la doccia, poi l'indomani ero gribbene, deve essere preso freddo, boh. E per dire a me ne sono andato dalla stufa, mica non so che ci do dalla doccia, boh. Che usa pozzo io? Se no, è un casino. Salute! Ah, contagiata, Daniele, a Marina, salute! Contagiata, allora. Mi sa che cocca con i belli scappati, diglielo tu, diglielo, lui. Cos'è Grazia? Lui sta di virus, tu, chieda se cocca sei con i belli vola scappati, da Ruletto. C'è questa pubblicità dice di Adeo Celentano, per carità, è poco lunga, mamma mia, ai gioielli prende. A me me ne è già parata, manco me ne guardo, perché intanto... è un coso in due puntate ed è a cartone animato, bella cagata. Ah, non dico il capofici, ma dura un bel giù, sembra che sia un coso, non si chiama, adesso mi viene la parola. Ma dura troppo dura. Sono animato, per carità. Non so ne più cosa inventarsi. Tu hai visto i film che devono dare al cinema? Cartoni animati, roba a macchi, tutto fatto a computer, così non pigliano niente a travagliare, a finire il cinema a computer, per carità. Ah, parlando di questa cosa qua, guarda Mario, la sinonda. Non ne fanno più film come si deve, perché assumevano un sacco di gente a fare i soldati, a far tutto. Ah va, allora si fa un film con un computer. Raga, Edu. Ma io sto morendo di fame, burbaghissu. Già lo so. Ecco, quello cosa vuol dire, mi? La tecnologia. Va da finire, la gente non travaglia più. Sorvita il burro di robot a qualsiasi cosa. Fra poco inventano un robot il sicuro il burro il guru. Tu non fai più nulla. Grazie, ma stai usando il fisso l'apparecchio. Ah? Ehi, voglio vedere un indomani. Cosa fa di la gente? Un disilluccio si zaccani. Ho detto, ma l'apparecchio fisso stai usando il portatile. Ma il prezzo. Infatti non è chiaro la radio, è un po' cupetta. E questo è il microfono, è il suo, l'originale. E non è adatto, è dal microfono, è così. E così lo davo. Sì, beh certo, mica se ce lo dico. Mica sto dicendo che lo devi modificare, poi sento un po', non molto, però è un po' cupetta. Lo so, ma il microfono è così. È piccolissimo il microfono. Oh, se l'hanno fatto così vuol dire che si poteva adattare così. Cosa? No, non laghi tu, ruotelli, non va nulla. Cioè, i tassini e buh. Mi sembra che l'avevo visto, piccolino, Sì, più piccolo del palmo della mano, Cioè, tutti i tassini, se voglio cambio canale da qua, dal microfono, senza toccare i tassini della radio. Posso fare tutto dal microfono. Già lo so. Ma è bello, e poi c'ha lo display, è quadrato, piccolo, però già si legge, è illuminato, lo sfondo azzurro e la frequenza che sto parlando rimane rossa. E poi a disposizione c'ho stampate altre tre canali, cioè 137, 145, 136 che 137 equivale a 625, poi 145 equivale a 525, 136 equivale a 625. Capito. E quello quanti watt da? Questo non me lo ricordo, comunque mi pare 5 watt. Capito. Sì, vabbè, già va bene, dai. Piccolino ma è professionale, mi sta giocando un bel, ne avevo comprato due, uno per me e uno per Gian Maria, questo qua. E chi mi aveva detto al telefono a chi fazia 500 e basta, ma è sicuro, lo sa quanto fa, tu due, io mica lo so, se li sto ordinando vuol dire che so cosa devo pagare, no, assurcadosi. Quanto hai pagato? Avevo speso 500 e passa, avevo speso. Capito, cos'è gli AISU? Questo? No, questo è nella qui ITB. Cos'è IT? È una Q, una Y e la T, KIT nel 2009. Ho capito. Vabbè, comunque funziona bene, dai. E c'è anche la ventolina sua dietro, piccola, e si mette in funzione appena raggiunge la temperatura, si accende automaticamente. Però come impianti la radio? Il microfono è così, il microfono è quello che ci ridavo. Poi questo non è a PL, è a spinetta, è in cazzo. Ah, non è a PL, ma non è a quello, vabbè, a cosa, a 5 punte così, tipo baracchino. Sì, no, c'ha un sacco di puntini, ci sono. Dunque dentro il filo vi sono un casino dei fili perché ci sono tutti questi tazzini, capito? Sono dei fili fini fini. E chi su? No, non è di come mettere i baracchini, no? Questo è proprio professionale, no, che va a riparare il suo, controllare l'attrezzatura sua proprio. Se no non fai nulla a buon visto. Beh, certo. Ogni tanto già lo metti in moto, quanti watt da quello, 50? Io sto usando l'alimentatore da 50, da 50 con questo. E con quell'altro alimentatore da 30 si abbassava la luce, vuol dire che era debole. Allora dammi di watt. Adesso non te lo so dire, c'ho tutto conservato. E non volevo, c'è la piastra, tutto completo, è bello, no, mi è piaciuto subito, però mica sto capo rugiallo, c'ha tutto, c'è anche la radio questo qua, tutto va. Manda foto su WhatsApp. Aspetta, che gliela faccio. Aspetta che mi sembra sbagliato, c'è di su Facebook. Luca, guarda se ti è arrivato. Non mi è arrivato. No, su WhatsApp no. È arrivato. Pari. Ciao Luca. Ehi, non mi è arrivato! E qua mi è uscito il tuo nome e l'ho premuto, Luca Putiche. Strano! Boh, aspetta, vedete. Mandamelo su WhatsApp, perché se me lo mandi su Messenger. Ah, su Messenger te l'ho mandato. Su WhatsApp mandalo. Non è arrivato, all'ufficio l'ha preso. Guarda che sei su Messenger allora, non su WhatsApp. Adesso mi è arrivato, io ho capito, sì, sì. Il video è mandato. Se tu mandami la foto e mandi un video, boh. Non ha giocato. Ciao Gian Maria, ben sentito, dormito ieri. Ehi. Dormito ora, mi sono svegliato adesso. Assistente, tanto non vedrà nessuno, vedrà un casotto e bu. Ehi, che è? Basta li fare, almeno se c'è casino si svagano di più. Luca, visto l'hai? Sì, l'ho visto. Ti piace? È carino, dai, piccolino, va bene. Cos'è che ti ha mandato lui? La Rionda l'ha mandato? No, la radio, Giovanni, la sua radio fissa. Come solito, come sempre quelle cose che ci manda sempre Graziano. A Mantiusi, lei. Guarda che me l'ha chiesta lui, la voleva vedere, mi brabbi. Davvero? Io tu Luca! Secondo me rimanca un bel. Davvero? Si può vedere? Guarda che ciò che fai tu, quello piccolino! A chi interessa? Lo sto dando! A Luca interessa! A me! C'è questa vendimiglia! Me la puttasse, no, non mi interessa a me! Non ne faccio proprio niente, guarda! 70 euro aiuto! Non è poco! Ma te li dire no, ti la vendo, ma perché un altro ne hai? No, ne ho due! Davvero ne avevi due? e mettilo su vende e compra. Compra e vendo. E hanno aumentato adesso, Hanno aumentato di parecchio adesso. Sì, già lo so. Quanto costa una cosa del genere, Gio Mari? Quanto costa adesso? Quasi 130. Ma ragazzi aveva detto 500. Vabbè, ma non conviene, là. Non conviene nulla. Ce ne sono mille adesso, mille e... 80-90 euro, finisci. Ma tu lo stai prendendo veramente? Eia. Mi piace, grazie, non te la compra. Allora, così, dammi un biglietto, pure il ruso falso, impara all'altro. Cosa, grazie? Ma ve lo compro, a conservarlo insieme agli altri, c'ho gli altri conservati. Vabbè, a me non li fa compagnia, vero Gio Mari? Sì, mi pare una dozzina, e sono tanti conservati. Sì, a me non si fanno compagnia, dai. A tensione bassa, non prendono freddo, non chiedono acqua, non chiedono niente, non disturbano, vero Gio Mari? Ma li ha di Arumanco, a Capappari? Ah? A giudizio si dà li ha di a Capappari. Come li mevano la manta a chi abbiano il freddo, la giumburigati. Quale stai usando, grazia? Quello preciso al mio? Eia! No, è bello, va bene. Va benissimo. Anche come radio va bene, che cosa vuoi pretendere? Hai pagato 125 tu, mi sembra. Ma sono belli, là, piccolini, e vanno bene. A voi, infatti, a Luca, gli conviene prendersi quello, è piccolino, già tutto. Ci muore in busciacca. Se a uno gli interessa, se può, se lo può prendere. Sei capito, a Luca. Certo, io ne avevo uno molto bello, ma bello veramente. C'ho la foto a casa e te la mando quando la metto nel telefono, o tramite Messenger. Iaesu, la fontanina estraibile, bello, con la ventolina sopra, ma molto piccolo, ma era un video con la radio. Me l'ho venduta a 150 euro. Quanto? 150, ma qualche anno fa, era nuova, Allora, questo napoletano ne aveva tante. Tramite un amico, passa così, te la vuoi comprare? L'avevo pagata, meno di 100 euro. Va bene. Va benissimo, non bene. Però, allora, se non ricordo male, d'Alfa, vorrei dire una cazzata, mi sa 10 watt in U o 25, se non mi ricordo, 50 in VHF. Quando ti capita a passare qua, te ne faccio vedere uno, già ce l'ho in magazzino, acqua dentro la scatola, nuovo, aperto, messa la frequenza, provato, e messo dentro la scatola, nuovo ancora, nemmeno il rodaggio ha finito. Ho capito, vabbè Gio Mari, ma tanto il discorso è, a me piace la tua radio, quella famosa, quella molto bella, la Terry, come una, come si chiama, anche messa sopra il 1000, quella che ha l'effetto Colt, adesso non mi ricordo quale, il Galaxy, quello che fa effetto elicottero. Basso ti sento, Gio. Molte frasi non riesco a capire, capito? Mi senti basso, e adesso prova. Rimane piena, troppo occupa la radio, un po' occupa, capito? Al momento ti sento bene, al momento può essere anche la radio mia, me. Guarda adesso che sono più distante, 1, 2, 3, prova. Adesso va bene. Ho detto, stavo dicendo che mi piace la tua radio, il Galaxy, quello che c'ha l'effetto elicottero, quella. Vabbè, a parte che è molto bella, che è nuova, Galaxy Saturn Echo. Ma quello non lo so. Cazzo, ma quello è nuovo. quale è stato comprato, portato a mettere la scheda e a casa. Quello costa troppo, ragazzi, ora l'ho pagata 460 euro l'ho pagata. Grazie. Beh, ogni tanto la scende, ma non lo sta accendendo più, no? Adesso è per me coperto lì. Ma è nuova quella è troppo nuova. Infatti l'avevo anche sentita, esce molto bene, molto bella. E sapete, possiamo mandare giù lo chef, aspetta, vediamo. Faida! Quello sì, poi anche la ricezione, per Galassi, la ricezione è troppo bella, troppo perfetta, non come gli altri apparecchio. È troppo perfetta la Galassi come ricezione, capito? E anche come trasmissione. Io ogni tanto quando lo uso senza la scheda, perché funziona con la scheda e senza scheda, capito? Ma ogni morto di pappa adesso già, adesso è più di 2 mesi che non lo accendo. Arrivato ti è Lu. Eia. Per innamorare però mi Luca. Mi ha mandato prima tu e poi Luca. Dai. Manda per la grazia a vedere un po' chi è. Te l'ho mandata a te su WhatsApp. Io Mari, assomiglia un bel Graziano. Ah, poi dici che non ti voglio bene, Per carità. Guarda tu, Giommari. Giommari, guarda, te l'ho inviata. Io gliel'ho inviata, Giommari. Ora non te la posso mandare, se no te la mandavo. C'è di 5 di Narvacone. Eia. Luca. Eia, grazie, dimmi tutto. La mando l'altra, no? Vedo che sei appartato lì. Banda, basta che sono donne nude, non ne ho bisogno per le donne nude. Comunque quello lì è uguale al mio, ma c'è la batteria piccola tu in quello portatile. Sì, e a voi abbassa e avanza, guarda. Va benissimo. È uguale a quello conservato nella scatola, uguale identico. Quello che c'ho è uguale, identico a quello, solo la batteria già, ma che è più alta. Se no sono uguali. Maria, beh, acciuppando te la sai. Guardata te l'hai. Sì, beh, lì però. Mica sei a vero. Comandata che è, a flippero. Mica sei a vero, tu. Grazie, assomigliamo me, no, per Giovanni. Per carità, che si cose, cazzo. Grazie, è preciso a te. Si rassomiglia a te, grazie. Se ti la giurita, hai visto quanto ti voglio bene. Mi avvaggio, Ragazzi, io qua sacco tutto, Ce la risentiamo a domani. Ok, ciao Giommaria, salutoni, buona cena, buon tutto. A domani se coincide. Ciao Luca, buona cena anche a te. Salutoni a Marina, a domani. E ciao che l'ascolto. Ciao, grazie, ci sentiamo, vai. Saluta in casa, ciao. Sì, ciao Luca. 10 minuti poi andiamo a mangiare. Ciao, grazie. Marina, ricambia, saluta Paoletta. E ci sentiamo domani, ciao. Sì, ciao, buonanotte. Hai visto lui? Arrivatati. Sì. Ma questo è un signore. Aspetta. Ma dopo un cancello non farla vedere a nessuno. No, assolutamente. Ciao Mari. Ferma Mari un attimino. La mia era più piccola di questa. Questa, vabbè, questa è più, si vede che ha più tastini. La mia era di meno, però come cosa era simile, dai. E questa è professionale però, eh. È bella, sì. Bella. Vabbè, la mia era simile, dai. mi sa che si poteva mettere l'unità dietro, non mi ricordo bene adesso Giovanni, l'avevo pagata, costava un po' di soldi pure la radio, era, questa non aveva uno stock, no, di queste radio usate, le usavano per lavoro, ma ne aveva tante, e stava dando proprio a prezzi stracciati. Comunque va, queste sono le uniche, solo che va bene, se dobbiamo parlare solo in persona, vai, mismo, quando va bene lui. Beh certo, va bene, no, tranquillo, non ci sono problemi. Avanti Luca. Ah, non è Luca, Giovanni. E chi è quell'altro che ha chiacchierato? È un occhio fino, eh. Ah. Io credo questi, quello è bello, ma non è più bello, è diventato brutto completamente. Mi sa di sì, Per carità. E vabbè, ma ci andiamo a mangiare, cosa ne dici? Mi stiamo guardando la finale di questo canale 5, poi andiamo a mangiare, sì. Dai, se Dio vuole ci sentiamo domani, Giomari. Ciao, buona cena, buonanotte, saluta una data 50, ci sentiamo domani, ciao. Ehi, ehi, saluto nel caso, dai. Buona cena, a domani, se Dio vuole, ciao. E io, grazie altrettanto, ciao Giovanni. Ciao anche a te, sentito mi hai? Ehi, che cucciù, parlate, va bene. Oh, de tue, alla leare. Vabbè, ciao.